Letture di Radio 24. Mentre i consumi degli italiani sono quasi fermi, i giochi alla ricevitoria non sono mai andati così bene. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché spesso le vincite realizzate vengono reinvestite nel gioco, quindi senza sostenere i consumi. Degli italiani sono quasi fermi. La loro voglia di scommettere gode invece di ottima salute. Gratta i vinci e slot machine, insieme a scommesse, lotto e schedine, hanno assorbito una quota pari al 7% della spesa complessiva dei cittadini. Così nel 2010, mentre i consumi totali delle famiglie si sono fermati a un incremento del 2,5% rispetto all'anno precedente, l'azzardo ha mosso risorse per 614 miliardi, il 13% in più rispetto al 2009. La voglia di giocare, insomma, non conosce crisi. Anzi, proprio la crisi sembra alimentare il mercato della speranza. Si gioca sempre di più, con una predilezione per i giochi a bassa soglia, le slot machine e i gratta e vinci, che garantiscono una maggiore frequenza di piccole vincite. Piccole vincite che però non vanno ad alimentare i consumi personali, ma finiscono per essere puntualmente reinvestite nella ruota della fortuna. Magari all'ulteriore tazzina di caffè della giornata si rinuncia, ma alla schedina del gratta e vinci no. Meno di un euro contro tre, ma una volta bevuti gli 80 centesimi se ne vanno con l'aroma della calda bevanda, mentre chissà mai che, raschiato via l'oro del tagliandino, non salti fuori la magica combinazione che ci farà vincere la somma che ci cambierà la vita. Illusione che dura il tempo di allontanarsi dal bar o dall'edicola. Bene che vada, si tratterà di qualche decina di euro. Che cosa farci? Difficile che bastino per comprare qualcosa di impegnativo. Neppure ci passerà per la testa di raggranellarli con altri spiccioli risparmiati per arrivare a cambiare, ad esempio, il divano. Meglio tentare di nuovo la dea bendata, sperando nella vincita vera. Tanto più che si tratta di soldi arrivati per caso, non guadagnati con il lavoro. Zero rimorsi, quindi. Peccato che tra un grattino oggi e uno domani, il gruzzoletto vinto si intacca e scema fino ad azzerarsi. Saranno necessarie nuove iniezioni di fondi, questa volta sì prelevati dalla busta paga. Una storia quotidiana che, riprodotta su tutto il territorio, si trasforma in un fiume di denaro che viene dirottato da altre spese per essere riversato in slot machine, lotterie e scommesse varie. Nel 2010 sono stati consumati 614 miliardi, una somma pari al 7% circa dei consumi privati. L'effetto sottrazione si evidenzia ancor più se si confrontano le variazioni. Nel corso del 2010 la spesa delle famiglie è cresciuta del 2,5%, mentre l'importo giocato ha sfiorato una crescita del 13%. È questo, a grandi linee, il quadro che emerge dall'analisi di Maurizio Fiasco, svolta nell'ambito della ricerca annuale per la Consulta Nazionale Antiusura esposta alla Commissione Antimafia. Se non altro, verrebbe da pensare, questa tendenza si traduce in buone notizie per le entrate erariali dello Stato, che dal 1992 ha trasformato il gioco pubblico d'azzardo in una leva fiscale importante per sopperire in parte ai fabbisogni crescenti della spesa pubblica. Invece, spiega lo studio addentrandosi nei numeri, il ricavato lordo per l'erario è cresciuto nel 2010 di appena il 3%, quindi a un ritmo ben inferiore all'aumento delle somme puntate. Ma quel che colpisce è la costante contrazione del rapporto tra giocato ed entrate erariali. Questo perché conquistano sempre più spazio i giochi cosiddetti a bassa soglia, che richiedono investimenti di pochi euro, garantiscono una maggiore frequenza di piccole vincite e hanno un prelievo fiscale meno pesante, 12,6% per le new slot contro il 50% di Super Enalotto o Win for Life. La success story del gioco pubblico d'azzardo si tradurrebbe quindi in effetti depressivi sui consumi privati, visto che le piccole vincite vengono reinvestite in gioco e distolte da altre spese, e in un ridimensionamento delle entrate erariali. In valori assoluti, sono i pavesi a mettersi in prima linea nella ricerca della fortuna, con oltre 2.000 euro pro capite puntati a fronte di una media italiana di circa 980 euro. I comaschi sono al secondo posto con oltre 1.500 euro pro capite. Nel complesso, a spendere più della media nazionale sono 43 province e anche questa particolarissima classifica, legata in qualche modo alla ricchezza, relega il Sud agli ultimi posti. Tuttavia, la prospettiva cambia radicalmente se si considera la percentuale di prodotto interno lordo spesa in slot, lotterie e simili. Pavia resta sempre in testa, ma subito dopo troviamo Teramo, Caserta, Sassari, Pescara e Napoli. A trattenersi dal richiamo del gioco sono invece prevalentemente province del nord, Biella, Cuneo, Bolzano e Padova. Quanto alle due grandi, Roma e Milano, entrambe spendono ciascuna oltre 4 miliardi di euro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La passione per il gioco divora il 7% dei consumi, a firma di Rossella Cadeo e pubblicato da Il Sole 24 Ore di lunedì 18 aprile. Letture di Radio 24. Questo pomeriggio alle 14.10, in occasione dello speciale del programma A Sua Immagine in onda su Rai 1, Benedetto XVI risponderà ad alcune domande raccolte dalla stessa trasmissione nel corso delle ultime settimane. L'intervista è registrata e le domande sono state selezionate, ma è pur sempre la prima volta che un pontefice risponde direttamente e in pubblico ai quesiti dei fedeli. Le persone che vivono in stato vegetativo percepiscono l'amore di chi li circonda e l'anima di coloro che si trovano in questa condizione non si stacca dal loro corpo. Lo dirà Benedetto XVI nell'intervista trasmessa da A Sua Immagine su Rai 1 rispondendo alla domanda della madre di Francesco Grillo, un giovane di Busto Arsizio affetto da sclerosi multipla e da 2 anni in coma. La donna ha chiesto al Papa dove si trova l'anima di mio figlio. Per la prima volta un pontefice partecipa a un programma televisivo e affronta quesiti raccolti tra i fedeli. Nel giorno in cui la Chiesa rivive la passione di Gesù, Ratzinger parlerà della sofferenza, del dramma del dolore innocente, delle difficoltà dei cristiani perseguitati. L'intervista, programmata da tempo, è stata realizzata da Rosario Carello, il conduttore di A Sua Immagine, ed è stata registrata lo scorso venerdì in Vaticano, nella biblioteca del Palazzo Apostolico. Inizialmente era stato annunciato che il Papa avrebbe risposto a 3 soli quesiti sul suo nuovo libro dedicato a Gesù. Visto l'interesse suscitato dall'iniziativa e il numero considerevole di richieste raccolte dalla redazione, gli è stato proposto di allungare i tempi e di allargare l'orizzonte. Lui ha accettato, mostrando ancora una volta di non volersi sottrarre alle domande più spinose e all'occhio delle telecamere. L'intervista TV arriva pochi mesi dopo quella realizzata dal giornalista tedesco Peter Sewald e trasformata nel bestseller Luce del Mondo. La domanda sull'anima di chi vive in stato vegetativo, registrata dalla madre di Francesco Grillo accanto al letto del figlio, assistito all'ospedale della Fondazione Raimondi di Gorla Minore, è stata la più toccante. Maria ha chiesto a Benedetto XVI se l'anima di Francesco abbia già abbandonato il suo corpo o sia ancora accanto a lui, malgrado la sua condizione di incoscienza. Il Papa teologo ha spiegato che l'anima non abbandona il corpo, anche se la persona è in stato di incoscienza, ma ha insistito sul fatto che le persone in coma, anche quelle che vivono in questo stato da molti anni, possono percepire l'amore, l'affetto, l'attenzione di chi sta loro intorno, un affetto con il quale Francesco è continuamente a contatto. A visitarlo ogni giorno arriva la sorella del giovane, spesso accompagnata dalle 3 figlie di 4, 6 e 8 anni. Sono davvero attaccatissime allo zio. Gli parlano, lo accarezzano, gli chiedono di svegliarsi. Non meno commovente sarà la prima domanda a cui Ratzinger risponderà, quella di una bambina giapponese di 7 anni, Elena, che ha il padre italiano. La piccola, durante il recente terremoto, era in Giappone, ha visto morire molti bambini, è ancora spaventata. E ha scritto al Papa chiedendo perché queste cose accadano. Tra le domande ci sarà quella di una mamma musulmana che vive in Costa d'Avorio e quella di 7 studenti cristiani di Baghdad. Il Papa affronterà anche il tema della discesa agli inferi di Gesù dopo la sua morte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tornielli, Il Papa in TV, pubblicato dalla Stampa del 20 aprile. I giovani non sanno più scrivere. Giaculatoria di una vecchia nonna? No. È ciò che verifica ogni giorno il professor Carlo Formenti coi suoi studenti di scienza della comunicazione. Una delle prime regole che i veterani insegnavano ai giovani giornalisti era evitare di usare più volte la stessa parola in un articolo. Ho provato a fare la stessa raccomandazione ai miei studenti, ma ogni volta che correggo una prova scritta verifico che è fatica sprecata. Il loro lessico è così povero che se devono scrivere senza l'aiuto del software non ce la fanno. Ma c'è di peggio. I testi sono infarciti di errori di grammatica e di sintassi che qualche decennio fa sarebbero costati un 4 a uno studente delle elementari. L'altro giorno, Alessandro Schiesaro, ordinario di letteratura latina alla Sapienza di Roma e consigliere del ministro Gelmini, riflettendo sul Sole 24 Ore in merito all'analfabetismo di ritorno che minaccia la generazione internet, scriveva che non si può accusare la rete di aver ridotto il tempo dedicato a leggere e scrivere, visto che, al contrario dei precedenti media audiovisivi, ha favorito un'evidente rivincita del testo, anche se quella degli SMS e dei post su Facebook è una testualità sui generis. Aggiungeva che i test Invalsi, che fra qualche settimana coinvolgeranno milioni di ragazzi italiani in migliaia di scuole per il terzo anno consecutivo, servono anche a misurare le dimensioni dell'handicap e a farci capire come restituire ai giovani il gusto della lettura lenta, più adatta a formare soggetti dotati di consapevolezza critica delle frenetiche abbuffate di dati. A ragionare e fare connessioni, insomma. Condivido l'obiettivo, ma temo che i test servano a scoprire una cosa forse scontata, per quanto misurata. I digital natives non sanno l'italiano. I media digitali plasmano i cervelli, modificando il modo di ragionare prima che di leggere e scrivere. Ne possiamo limitarci a dire che questo è già successo con l'introduzione della stampa e della TV. Per trasformare i ragazzi in utenti consapevoli dei nuovi media, servono investimenti per formare i docenti, perché senza buoni insegnanti la scuola serve ben a poco. Se poi si riuscisse ad abbassare il numero degli studenti per classe e adeguare le infrastrutture scolastiche, sarebbe buona cosa. I test, in fondo, sono solo una misura, non la soluzione. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Carlo Formenti, Internet e analfabetismo, pubblicato dal Corriere della Sera del 20 aprile.